Dovrei mostrarmi indegno del tuo ceto, firmare accordi cheto senza porre un veto. Null'altro chiedo se non piccoli dettagli che mi portano a bramare le tue carni, non ti sbagli. La puoi chiamare anche vendetta, pure metodo bislacco per avere quello che mi spetta. Qua nessuno mi rispetta ma pretende, come il grugno di Bassanio, la tua indole che offende. Nulla ripara, neanche un briciolo della mia ira. Sale in alto l'astio, fuoco di una pira. Diffidenze su rapporti umani ridotti in cenere. Possa il mare inghiottire quella tua flotta celere. Resterai in balia di me senza speranza alcuna. Non ti salveranno scemi armati di imprudenza. Puoi celarti tra la bruma della laguna o inabissarti tra le acque di Venezia. Va a baciare i piedi al doge col mio gobbo servo. Serve a poco se c'è un atto notarile. È segnato il tuo destino senza alcun riservo. Andrà in malore il tuo grigiore mercantile. Shylock, sibila il mio nome nei tuoi guai. Metto a nudo il cuore buono che non hai. Sono l'ingranaggio inconfessabile che muove la tua cultura. Fila liscio e sotto sotto un po' si usura. Nell'oscurità qualcosa brilla. Tra le righe puoi supporre che ci creda pure William. Chino il capo a lieto fine anche se mi rovina. Sono passati secoli ma tutto è come prima. Il mio cedere vi appare greve sotto il peso di una manta scura con cui vado in giro. Impassibile ma sotto tiro, dagli a prendere sputi e insulti, il passo è breve. Io reietto senza attenuante, vi disturba la mia gabbia di moneta sonante. Surrogato volgare di quel potere bisunto che mi vuole schiacciare tra gli stereotipi del vostro culto. Non ho riguardo, un bastardo con la croce resta sempre un bastardo. Spocchia di misericordia e senza da infingardo possa ronne benedire mezza oncia del tuo lardo. Caro mercante, benvenuto adesso sull'attenti. Sfrego mani fino a renderle roventi. Apro i battenti del mio regno burocratico, nero su bianco come i passi del Levitico. St'ipocrisia ti costa cara, Antonio mio. Non si bara con gli allievi di maestri sazi e prodighi. Sarà respinta ogni parola che ora vomiti, al punto da indurti a strisciare su quei ricamati gomiti. Shylock, sibila il mio nome nei tuoi guai. Metto a nudo il cuore buono che non hai. Sono l'ingranaggio inconfessabile che muove la tua cultura. Fila liscio e sotto sotto un po' si usura. Nell'oscurità qualcosa brilla. Tra le righe puoi supporre che ci creda pure William. Chino il capo a lieto fine anche se mi rovina. Sono passati secoli ma tutto è come prima.